io non ho trovato, ahimè, nulla di nuovo, anzi mi sembra che il progetto sia preciso, chiaro, è un progetto portato avanti da questo governo con molta forza e dunque senza alcun tipo di, chiamiamolo, pudore, o che di solito comunque queste cose venivano fatte con attenzione, mentre il progetto è chiaro e per cui queste cose, come quella appunto di essere mercante d'armi e promotore di questo commercio, diventa proprio l'elemento, come dire, che segue l'attuale politica impostata dal governo, cioè iniziata con l'aumento delle spese militari, abbiamo un aumento progressivo sulla nostra finanziaria legato alle spese militari e alle missioni cosiddette di pace, per cui tutto quel comparto, questo ormai da 3 anni a questa parte, abbiamo avuto sotto questo governo lo smantellamento della 185, ora più che smantellamento, l'annacquamento in alcuni passaggi di una legge importante sul commercio delle armi, che regolava i flussi appunto dell'export italiano, e lo abbiamo avuto con un preciso progetto, quello di dedicarsi alla coproduzione europea, per cui far sì che le nostre imprese si lanciassero nel mercato della coproduzione in maniera coerente, cioè con una legislazione che le supportasse, cioè che evitasse eccessivi controlli e burocrazie su questo. È coerente rispetto al suo progetto di presenza bellica in territori come quello dell'Iraq, Afghanistan e così via, dove è palese l'illegalità di quello che è avvenuto. E è coerente anche rispetto a quello che sta avvenendo nelle politiche di sostegno agli aiuti allo sviluppo, perché queste politiche stanno riducendo drasticamente, promesse iniziali sono state rese vane dagli articolati poi delle varie finanziarie, che poi contabilmente hanno dimostrato l'assoluta risposta e inadeguata risposta che questo governo ha dato al problema appunto dei sud del mondo, come l'ho definito, ma insomma delle povertà che continuano a crescere e sulle quali noi appunto non facciamo altro semmai che andare con una valigetta esportando l'aereo migliore, come a bei tempi purtroppo. E insomma il clima è pessimo, cioè la sua affermazione la trovo, ahimè, coerente con le impostazioni date. L'unica cosa che possiamo sperare e augurarci è che al più presto questo governo non sia più rappresentato da una persona così.